Summertime di Elisabetta Fiorito. Una partita poker si incede, prendetevi questo ferito in me, ma se vinco Buon pomeriggio, ci accompagnano le note di Giacomo Puccini, ovviamente la fanciulla di West di Giacomo Puccini compie 100 anni e questa sera l'apertura del Festival di Torre del Lago, dove è vissuto, è nato il grande musicista, è proprio dedicata a questa opera. Abbiamo sentito la splendida voce di Renata Tebaldi. E allora noi abbiamo Franco Moretti, direttore della Fondazione del Festival, e poi Daniela Dessì, che si esibisce proprio in Mini, la fanciulla del West. Buongiorno, dottor Moretti, come sta andando? Molta emozione. Moltissima, è un'edizione speciale, sono i 100 anni di Fanciulla del West, abbiamo un cartellone denso e bellissimo, aspettiamo tanti spettatori da ogni dove. È 56esima edizione del festival, sì. E si va fino al 22 agosto con tantissime opere del grande maestro, ma la fanciulla del West è un po' strana come opera, perché ambientata in un saloon, durante la corsa all'oro, in un West che noi oramai abbiamo come retaggio culturale, quello lì un po' dei film in celluloide, ha capito, in Technicolor con John Wayne, e ci sembra sempre strano questo avvicinamento tra l'opera e questo mondo un po' grezzo, qual è quello del cowboy. Il papà di tutto ciò che diceva è stato proprio Giacomo Puccini, che insieme a David Belasco nel 1910 a New York mettono in scena questo che è veramente il papà di tutti gli western a seguire. Lei pensi che usarono per l'occasione cavalli in scena, macchine inventate per riprodurre questo clima selvaggio, siamo in inverno sulle pendici delle montagne in California, nevica, insomma succede di tutto, e questo è stato reso in scena 100 anni fa da un Puccini, uomo di teatro, grandissimo musicista, da David Belasco, che probabilmente piaceva a Puccini perché era un grande innovatore. Si conobbero quando Puccini vide in teatro a Londra il dramma da cui poi trasse Madama Butterfly, quindi un sodalizio collaudatissimo nel 1910. Quando Puccini sbarca a New York per la sua fanciulla, il New York Times lo definisce l'uomo più popolare del mondo. Fanciulla è un'opera, come ci dirà Daniela, modernissima, musicalmente è qualcosa di estremamente attraente e accattivante per il pubblico, che purtroppo non la conosce molto, e quindi l'invito è per venirla a scoprire, tanto più che eseguiremo anche una ventina di battute che furono eseguite soltanto proprio in quell'occasione della prima New York nel 1910. Fanciulla è stata scritta qui a due passi tra Chiatri, Torre del Lago e Viareggio, Torre del Lago dove appunto sorge il nostro gran teatro e dove tutta l'atmosfera pucciniana si può ancora toccare, Daniela Dessì, che cosa vuol dire interpretare Minnie, una donna che come tutte le eroine pucciniane lotta per il suo uomo, però alla fine poi la spunta? Beh, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Franco. Insomma, interpretare Minnie intanto in questa occasione è sicuramente molto importante. È un personaggio molto particolare, non è un personaggio, è un personaggio desueto, non è simile alle altre eroine pucciniane, non ha arie chiuse, quindi è un personaggio che dall'inizio arriva alla fine senza come si può dire, pezzi chiusi, e la storia si svolge, è inarrestabile, e questa voce, questa vocalità e questo personaggio maturano dall'inizio, da una fanciulla così molto naif, molto semplice fino ad arrivare veramente alla storia drammatica che è nel secondo atto, e un lieto fine che io amo dire sempre tra virgolette, perché è un lieto fine molto malinconico, è un po' la storia degli addii, quindi insomma è un'emozione centenaria, ma è sempre un'emozione e un divertimento cantare Fanciulla. L'aria più difficile da cantare? Ma sì, c'è una, Puccini ha scritto una piccola aria che è Laggiù nel Soledad, ma è difficile da cantare tutta l'opera per Minni, perché Minni sta in palcoscenico tutto il tempo e, ripeto, è un quasi, tra virgolette, un recitar cantando, è molto molto legata alla parte scenica, alla parte vocale estremizzata negli acuti, parte vocale che spazia moltissimo tra parte melodica, piani pianissimi, forti, fortissimi, frasi drammatiche che quasi si avvicinano un po' al repertorio di Turandot, insomma è una parte molto complessa, ma li ripeto, anche piuttosto interessante, molto interessante e anche divertente, perché insomma mette un po' così la cantante sotto pressione, e questo a me piace sempre. Allora, Daniela Dessì si esibisce stasera, lo ricordiamo, nella Fanciulla del West a Torre del Lago, il festival di Puccini. Un'ultima domanda, Moretti, gli appuntamenti, le opere proprio flash, le opere che sono in cartellone quest'anno fino al 22 agosto. Domani sera abbiamo un'altra prima, Madama Butterfly, in un allestimento fortunatissimo, anche qui grande cast. Il nostro direttore artistico, il maestro Alberto Veronesi, ha messo in campo veramente i migliori artisti del panorama lirico internazionale. 24 luglio la prima di Tosca, 31 luglio la prima di Turandot, poi il balletto Romeo e Giulietta, poi un gran gala il 28 luglio, non mancate, con René Fleming, grandissima stella internazionale. Insomma, intanto in bocca al lupo a Daniela, che è una delle nostre eroine preferite, e in Fanciulla dell'West è veramente formidabile, affiancata da Fabio Armiliato, Carlo Salmagher, sul podio il nostro Alberto Veronesi. Buon festival a tutti gli ascoltatori di Radio 24. E poi noi seguiremo, perché sicuramente vorremmo sentire anche le note di Madama Butterfly o di Tosca. L'appuntamento esattamente alle 21, alle 20:30, per chi vuole venire a Torre del Lago, al Gran Teatro all'aperto, giusto? A che ora? Esatto, poi insomma il clima di questi giorni incandescenti veramente invoglia a starsene sotto le stelle con le nostre grandi stelle. A che ora? 21:15. Perfetto, allora Festival Pucciniano di Torre del Lago. Risparmiate lo sterno della morte. Lo sapete, mi starò a trovare. Se mi sciogliete un braccio, mi scosso di amaro. Altro voglio parlarvi. E con queste splendide note della Fanciulla di West noi lasciamo Placido Domingo, la Fanciulla del West, quest'opera in tre atti di Giacomo Puccini, per andare invece a Gorizia, a Cividale del Friuli precisamente, perché fino al 25 luglio, da domani, ma ci sono anche delle anticipazioni fissate per oggi, si svolge il Mittelfest, Genio d'Europa, Demoni. Buon pomeriggio a Furio Bordon, direttore artistico della sezione prosa. Che cosa succede in questa località del Friuli? Quest'anno, per quanto riguarda la prosa, noi abbiamo puntato su tre sezioni, un progetto Dostoevskij che verrà inaugurato oggi in una sorta di anteprima a Gorizia, quindi fuori da Cividale, poi una seconda parte che riguarda la trilogia della memoria, che sono tre spettacoli che questa compagnia Muta e Mago, che è una compagnia sperimentale che si esprime prevalentemente attraverso suggestioni visive e sonore, sono circa 6-7 anni che ci sta lavorando, finalmente l'ha completata, qualche mese fa e per la prima volta la presenta integralmente nel suo ordine logico e cronologico da noi. Sempre a Gorizia questo. Allora, un attimo la interrompo perché abbiamo un brano dei Fratelli Karamazov di Dostoevskij che presenterete appunto nel festival. Musica che sicuramente ci porta un po' nell'atmosfera delle steppe russe, ecco, i Karamazov. Questa sera. A che ora e dov'è l'appuntamento? Dunque alle 19, l'appuntamento è al Teatro Verdi di Gorizia, con un'ottima aria condizionata, fortunatamente. Il weekend che cosa prevede? Il weekend prevede La storia di Tenle di Mario Rigoni Stern, adattato da Pino Petruzzelli, è recitato da Pino Petruzzelli, questo è sabato 17 luglio. Domenica 18 luglio la prosa un po' riposa, ma ha in realtà una collaterale su Dostoevskij, sono tre appuntamenti sulla spiritualità popolare slava. L'appuntamento per questa sera alle 19 con questa kermesse sui Fratelli Karamazov a Gorizia al Teatro Verdi, poi invece durante il festival si sposta alle ore 21, non resta che andare a Cividale del Friuli tra Gorizia e Udine per conoscere qualcosa di più sulla cultura mitteleuropea e dell'Est Europa. Summertime. I tuoi dipinti a Santa Maria del Popolo sono bellissimi. Davvero, il volto di San Pietro sulla croce, il suo dolore, il suo stupore, mi hanno commossa. Sono contento che vi siano piaciuti. Davvero, hai raggiunto una maturità artistica altissima, Michele. Ma sei felice? E quelli che sentiamo sono Elena Sofia Ricci e Alessio Boni nello sceneggiato su Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Ma il grande artista è soprattutto il protagonista della Notte Bianca di sabato, che si apre alle 19 fino alle 9 di domenica 18 luglio nelle sale della Galleria Borghese e le tre chiese di Caravaggio a Roma. Anna Coliva, direttrice della Galleria Borghese, quindi tutta quanta la galleria è aperta per tutta la notte tra sabato e domenica? Sì, sarà possibile come omaggio e anzi come così meditazione, ricordo della notte fra il sabato e la domenica, cioè fra i giorni 17 luglio e 18 luglio, perché il 17 luglio e il 18 luglio Caravaggio nel 1610, quindi 400 anni fa, morì a Portercole in seguito a malaria, a febbri, perché stava rincorrendo la nave in cui erano i quadri che dovevano essere destinati proprio a noi, cioè proprio alla collezione di Scipione Borghese che li voleva in cambio del perdono. Quindi perché si è scelta la Galleria Borghese? Adesso si chiama Galleria Borghese, prima era la villa, si chiamava Villa Fuori Porta Pinciana del Cardinale Scipione Borghese, in cui c'era la più grande collezione del mondo, la più importante, e Scipione Borghese desiderava i quadri di Caravaggio, essendo appunto un grande esperto, più di qualunque altra cosa, e Caravaggio, per avere il suo perdono, per poter ritornare a Roma, perché aveva commesso un assassinio, quindi aveva la pena capitale, doveva portare in cambio a Scipione Borghese la cosa che Scipione Borghese desiderava di più, cioè i suoi quadri. Lui vede andare via la nave con il suo bottino, con il prezzo del riscatto per lui, del prezzo della grazia, e disperatamente cerca di inseguirli. In questa corsa disperata, ce lo possiamo immaginare, luglio come adesso, un caldo torrido, in più la malaria, le paludi, lui arriva stremato e muore immediatamente appena arriva a Portercole, e quindi in un qualche modo, anzi forse più che in qualche modo, la collezione, quella che sarà il museo Museo Borghese, la collezione Borghese, hanno avuto una concausa nella morte di Caravaggio. Ma questi quadri poi arrivarono, quindi? Questi quadri arrivarono perché Scipione Borghese, quando si arrivò la notizia che Caravaggio era morto, al suo nunzio, al suo inviato a Napoli, la prima cosa che chiede è non come è morto, dove è morto, perché è morto, calcoliamo che lo conosceva benissimo, lui fu il primo, i primi due quadri di Caravaggio in assoluto erano già di proprietà di Scipione Borghese, lui lo conosceva molto bene, fu uno dei suoi primi collezionisti, lui chiese i miei quadri dove sono. Ridateci i quadri, insomma, si comincia sabato alle 19, si va avanti fino a domenica alle 9, niente biglietto, niente prenotazione, basta mettersi in fila, le file ci saranno per la Galleria Borghese, Piazza del Popolo, San Luigi dei Francesi e Sant'Agostino, e ammirare così le opere di questo grande artista, Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. E allora, chi vincerà il premio Tropea? Ce lo domandiamo perché il premio Tropea è proprio questo weekend. L'appuntamento è alle ore 20 in Piazza Galluppi e Pasqualino Pandullo, il presidente dell'Accademia degli Affaticati, beh, con questo caldo possiamo giocare un pochino su questo fatto che c'è fatica, è abbastanza emozionato questa sera. Qual è la terna? Qual è la terna in allora, Lizza? Buon pomeriggio innanzitutto. La terna è stata decisa dal Comitato Tecnico Scientifico presieduto da Isabella Bossi Fedrigotti ed è formata da Scintille di Gad Lerner, da Il silenzio dei chiostri di Alicia Jiménez Bartlett e da Sinfonia del tempo breve di Mattia Signorini. La particolarità del premio Tropea consiste proprio nel fatto che a decidere il vincitore assoluto saranno tutti e 409 i sindaci calabresi, affiancati da una giuria popolare formata da studenti e dalla cosiddetta società civile locale calabrese e tropeana in particolare. Quindi questa iniziativa, questa manifestazione che è arrivata adesso alla quarta edizione si traduce al tempo stesso, oltre che in una possibilità di incontrare scrittori, giornalisti, intellettuali di livello nazionale e internazionale, anche in una direi gigantesca quanto inedita campagna per la lettura. Allora noi ci risentiamo lunedì perché lei ci dirà chi ha vinto il premio Tropea tra Bartlett, abbiamo detto Il silenzio dei chiostri, edizione Sellerio, sì. Gad Lerner, Scintille, edizioni Feltrinelli e Mattia Signorini, La Sinfonia del Tempo Breve, edizione Salani. E vedremo chi ha vinto questo premio letterario, potremmo dire calabrese, visto che lo votano tutti e 409 i sindaci. Grazie. Grazie, vi invito alle serate da questa sera fino a domenica alle 20 nel centro storico di Tropea, nella piazzetta Galluppi. Che favola, eh? Annaggia, noi siamo qui inchiodati in città, ma consigliamo a tutti gli italiani che si trovano in Calabria di andare. Grazie infinito a Pasqualino. Grazie a voi, arrivederci. Pandullo, presidente dell'Accademia degli Affaticati, associazione promotrice del premio. Luigi Alfredo si abituò a pensare alla cosa che gli era successa proprio con quel nome, il fatto. Da quando gli era capitato il fatto, come aveva capito dal fatto, il fatto che gli aveva orientato l'esistenza. Negli anni che seguirono, lui andò definendo i confini del fatto. Vedeva i morti, non tutti e non a lungo, solo quelli morti violentemente, e per un periodo di tempo che rifletteva l'estrema emozione, l'energia improvvisa dell'ultimo pensiero. E quello che abbiamo sentito è Rosaria De Cicco, che leggerà domani 17 luglio al Palazzo Marziale a Sorrento i brani del commissario Ricciardi, i libri editi da Fandango di Maurizio De Giovanni. C'è un incontro con lo scrittore che presenterà anche il prossimo libro, il quarto della saga del commissario Ricciardi, questo commissario che indaga nella Napoli del 1931, il quarto episodio, Il giorno dei morti. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it e che potete riascoltare la puntata sul sito www.radio24.it. Una buona serata a tutti da Elisabetta Fiorito.